Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. C'è una nuova questione salariale nel nostro paese? È la domanda che ci poniamo questa sera, cari ascoltatori. Se, stando alle rilevazioni ufficiali, il 40% dei lavoratori al sud guadagna meno del reddito di cittadinanza, che è fissato a 780 euro, abbiamo evidentemente un problema. Certo, stiamo ancora facendo i conti con gli effetti nefasti della grande crisi che ha investito la nostra economia da 2008 in poi. Abbiamo un problema di bassa crescita, ma di certo c'è assoluta necessità di spingere sul sostegno della domanda interna dei consumi. In questa direzione va il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo a partire dal prossimo luglio, che riguarderà circa 16 milioni di lavoratori dipendenti. Quel che vogliamo indagare questa sera è se esistano dei fattori strutturali che stanno determinando il consolidarsi di una nuova questione salariale e in che modo si possano creare le condizioni per elevare il livello medio dei salari, tenendo conto ovviamente delle compatibilità di finanza pubblica. Lo facciamo in compagnia di un libro dal titolo emblematico Basta salari da fame, pubblicato dalla Terza e scritto da Marta e Simone Fana. Marta Fana è una studiosa di mercato del lavoro e ha conseguito tra l'altro il dottorato di ricerca in economia presso l'Institut des études politiques de Sciences Po a Parigi. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Allora, partiamo proprio da uno dei temi caldi del dibattito politico di questi giorni, quello del salario minimo. Ecco quanto voi scrivete nel libro. Nel 2019, la maggioranza dei paesi a capitalismo avanzato e una parte consistente dei paesi in via di sviluppo adottano un salario minimo legale. Su 36 paesi appartenenti all'area OCSE, 24 hanno un salario minimo. Di questi, 22 fanno parte dell'Unione Europea, più Cina, Brasile, India, Stati Uniti. In Italia, Austria, Svezia, Cipro, Danimarca e Finlandia, la definizione del salario compete alla contrattazione collettiva. Al di là delle differenze di modelli, la tendenza in atto conosce un aumento dei paesi che hanno introdotto forme di salario minimo legale. Un processo che ha avuto un'accelerazione negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria del 2007-2008. E si spiega con la crescita esponenziale del lavoro povero e con la necessità di stabilizzare un quadro politico segnato dall'insorgere di movimenti populisti e xenofobi. Un problema che pervade principalmente i paesi a capitalismo avanzato, più colpiti dagli effetti della crisi, che fanno i conti con un'elevata instabilità del quadro politico. Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'indice dei salari tra il 1999 e il 2017 è triplicato nei paesi in via di sviluppo, con una forte spinta della Cina, mentre è aumentato in media di appena il 9% nei paesi avanzati. Ecco, Marta Fana, parliamo subito del salario minimo. Ecco, ad esempio, la tesi di Confindustria è che l'introduzione di un salario minimo legale potrebbe, a determinate condizioni, contribuire a ridurre l'area delle situazioni anomale, ma il problema centrale resta quello di garantire il rispetto delle regole e della giusta retribuzione del lavoro, a prescindere dalla sua fonte di regolazione, se sia legale o contrattuale. Quindi il tema centrale è definire correttamente il rapporto tra salario minimo e il sistema della contrattazione collettiva esistente. Ecco, lei che pensa a questo proposito? Stando proprio diciamo a quelli che sono gli istituti di salario minimo legale, si nota che soprattutto in Europa non c'è alcuna incompatibilità tra la contrattazione collettiva nazionale, tra l'altro anche centralizzata e non mista come quella italiana, e l'istituto del salario minimo legale. Ovviamente, ad esempio, in Francia il salario minimo legale è istituito come soglia al di sotto della quale nessun lavoratore può essere pagato. Certo. Tutti gli altri salari, che sono invece più alti data la contrattazione collettiva nazionale, rimangono più elevati e in ogni caso diciamo, l'aumento dei salari contrattuali avviene sempre attraverso la contrattazione e non ovviamente per legge. Invece, per quanto riguarda il salario minimo legale, i sistemi di adeguamento, ad esempio all'inflazione, come avviene in Francia o in altri paesi, è istituita e stabilita da una commissione mista tra parti sociali, governo, eccetera. Certo, quindi però il tema da noi come sempre riguarda le compatibilità di finanza pubblica, c'è il tema del finanziamento, no? dell'introduzione di un salario minimo legale. A questo proposito voi avete individuato delle soluzioni? Sì, innanzitutto la questione del salario minimo e quindi della questione salariale in generale non ha quasi nulla a che fare con la finanza pubblica in negativo, ma solo in positivo, ovvero sì. Il salario minimo legale è quindi un aumento drastico dei salari, soprattutto lordi, nel basso della distribuzione, va pagato attraverso la distribuzione dai profitti ai salari, perché quello che noi sappiamo è che in tutti i paesi europei, compresa l'Italia, dove la produttività è stagnante, la quota profitti negli ultimi 35 anni è di gran lunga cresciuta più che invece la quota salari, sì. Che invece il suo speculare. Al contrario, per le finanze pubbliche, maggiori salari significa anche maggior gettito. Mm-hmm. Certo. Perché ovviamente in Italia la finanza pubblica è fatta soprattutto dai contributi dei pensionati e dei lavoratori e molto meno invece dai cespiti e quindi dal reddito di capitali sotto varie forme. Certo, poi d'altro canto nel nostro paese assistiamo a una divaricazione ormai storica dei salari tra nord e sud del paese, quindi evidentemente un problema c'è. E c'è il tema appunto della produttività che è stagnante da molti anni, lei faceva cenno a questo tema. Ecco, in che modo secondo voi si può aggredire questo problema che è studiato e indagato dagli economisti, dai politici, e però effettivamente abbiamo un problema noi da questo punto di vista. Abbiamo un problema e la questione salariale entra a pieno titolo in questo dibattito, ovvero se noi permettiamo ai salari di essere talmente bassi come quelli in Italia, l'avete ricordato un po' voi anche in apertura, è normale che la specializzazione produttiva andrà a competere su una fascia molto bassa del valore aggiunto. Non a caso la nostra occupazione e produzione è sempre più terziarizzata, ma non nei servizi ad alto valore aggiunto, ma in quelli bassi. Al contrario, aumentando i salari si creerebbe davvero una competizione virtuosa anche tra le imprese, cioè attireremmo imprese ad alto valore aggiunto e che di conseguenza per sopravvivere o galleggiare non devono svalutare i salari e quindi le condizioni di lavoro. E questo in un certo senso era un po' quello che diceva anche Silo Slabini, un grande economista riformista, dicendo che senza l'aumento del costo del lavoro non c'è nessun incentivo per le imprese di migliorare sia la produzione dei prodotti in termini di qualità del prodotto sia in termini di organizzazione del lavoro e quindi dei cicli produttivi. Ecco, in questo contesto qual è il ruolo delle nuove tecnologie? Sappiamo appunto che siamo nel pieno di una grande rivoluzione che forse è una delle più importanti degli ultimi decenni, che è quella delle nuove tecnologie digitali. Ecco, in che modo possono interagire le nuove tecnologie con la questione salariale? Innanzitutto il tema della tecnologica è molto ampio e bisogna distinguere appunto tra tipi di tecnologia e quindi tra tipi di innovazione, perché quello che vediamo in Italia non è una forte robotizzazione o automazione dei processi, ovvero sostituzione di macchine con lavoro umano, ma anzi al contrario, proprio perché noi andiamo a specializzarci in settori che sono più ad alta intensità di lavoro. Quello che si nota però in Italia è che l'adozione di tecnologie all'interno dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi è in qualche modo volte all'obiettivo di intensificare proprio la produttività, ovvero se vogliamo proprio intensificazione dei turni di lavoro, e questo si vede per esempio quando si leggono i tempi di saturazione degli operai e non soltanto. Dall'altro lato ovviamente i tipi di tecnologia entrano in modo diverso, se parliamo di servizi e quindi delle casse automatiche, dove però non spariscono le cassiere ma vanno soltanto a fare altro lavoro, perché anche qui il contenuto delle loro mansioni non è soltanto la cassa di per sé. Questo è un tema molto complicato, ovviamente molto eterogeneo. Il punto di caduta sulla questione salariale e quindi sul conflitto distributivo rimane che l'adozione della tecnologia non è né buona né cattiva in quanto tale, bisogna capire come governiamo e come redistribuiamo anche gli incrementi di produttività, se vanno tutti ai profitti o se vengono redistribuiti sotto forma di salario o anche riduzione dell'orario di lavoro. Sì, perché poi il tema centrale del nostro paese resta quello di creare nuova occupazione, perché nel momento in cui siamo in contrazione del PIL che cresce così poco, abbiamo un tema proprio reale di creazione di posti di lavoro, anche per favorire la permanenza dei nostri giovani e non la fuga all'estero, come sta avvenendo. Ma senza dubbio, però su questo bisogna davvero rimettere un po' tutto in discussione sulla politica economica, perché guardate, cioè non è non soltanto la questione dell'età pensionabile, però in Italia rispetto al resto d'Europa abbiamo quasi 2 milioni in meno di dipendenti pubblici, no? Passa tanto la narrazione per cui ne abbiamo troppi, in realtà ne abbiamo troppo pochi, che significano i medici, significano gli insegnanti, e questi sono i laureati sostanzialmente. E allo stesso tempo in generale la pubblica amministrazione oggi, se vuole rinnovarsi, ha bisogno di persone più istruite, e in questa fase storica di istruzione, i livelli di istruzione sono più elevati di prima. Quindi diciamo un piano del lavoro che effettivamente fa rientrare con contratti e salari più alti centinaia di migliaia di giovani, più o meno giovani, ovviamente non sto parlando solo degli anni 30, sarebbe proprio una spinta, e sarebbe effettivamente anche quello stimolo per le imprese private, perché a quel punto davvero la scelta di un lavoratore di entrare nel pubblico piuttosto che nel privato si va a confrontare anche rispetto alle condizioni di lavoro, che non devono essere invece ribassate. Ecco, l'ultima questione, dottoressa Fana, abbiamo poco più di un minuto, riguarda un suo giudizio sulla decisione del governo di intervenire a metà anno con la riduzione del costo del lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale. Va nella giusta direzione, a suo avviso? Ma rispetto alla questione salariale poco, perché innanzitutto il cuneo fiscale quest'anno è stato allargato oltre gli 80 euro a una fascia di reddito più alta rispetto a quella del limite precedente, e non inferiore, che invece riguarda proprio quei milioni di lavoratori che quasi le tasse non le riescono a pagare. E l'altro punto è che il cuneo fiscale è tutto interno alla fiscalità generale, quindi sono altri lavoratori che pagano. Quindi in questo senso c'è una redistribuzione interna verso l'alto. Vista la situazione dell'Italia, visti i livelli di povertà lavorative, i livelli di davvero quasi svalutazione, forse si poteva fare anche molto di più con quei 7 miliardi. Va bene, grazie dottoressa per essere stata con noi. Ringrazio Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. A tutti voi appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti.